ora vi racconterò una favola, la mia favola. C'era una volta una principessa che mi aveva conquistato con questa premessa: ti sarò fedele, era la promessa. Io ci ho creduto, puntando tutto, ho fatto una scommessa, ma fu un gioco d'azzardo ed è andata persa. Sogniamo un lieto fine, una storia diversa. Invece di una favola, ho vissuto un'altra farsa. La mela avvelenata era nascosta nella borsa. Dopo un morso, ho dato un'altra volta alla sua immagine. Era una strega, questo è il risultato dall'indagine. Da quel giorno, ho chiuso il libro delle favole. Riscrivo la mia, senza un lieto fine, basta frottole. Non sogno più, cammino con i piedi nel catrame, superando un altro ostacolo, un nuovo esame. Non mi servirà uno specchio per sapere chi è la più stronza del reame. C'era una volta chi credeva nelle favole, c'era una volta così iniziavano le fiabe, c'era una volta chi sognava ad occhi aperti e vissero tutti felici e contenti. C'era una volta chi credeva nelle favole, c'era una volta così iniziavano le fiabe, c'era una volta ma tanto tempo fa, non questa volta, la principessa è morta e sepolta. C'era una volta un principe azzurro, le sue promesse si scioglievano come burro al sole, accecato dal potere ottiene tutto quel che vuole, a discapito di chi ha un cuore. Era l'amico che tutti volevano, dava pacche sulle spalle e loro si illudevano. Il cavaliere dall'armatura scintillante, dietro l'elmo il suo sguardo accattivante. Sotto quella maschera celava la sua identità, fatta su misura per nascondere la verità. Che era lui il vero nemico del regno, che era lui il malvagio dal cuore di legno. Smascherato in pubblico fu presto condannato a rimanere solo per quel suo peccato. Giustizia è fatta, un'altra favola è finita, non sputare sul rispetto e la morale della vita. C'era una volta chi credeva nelle favole, c'era una volta così iniziavano le fiabe, c'era una volta chi sognava ad occhi aperti e vissero tutti felici e contenti. C'era una volta chi credeva nelle favole, c'era una volta così iniziavano le fiabe, c'era una volta ma tanto tempo fa, non questa volta, il principino ha fatto la sua scelta. C'era una volta, ma questa è storia vecchia, tutto si è sbiadito nel tempo, c'è solo una macchia, la lezione che vi lascio in dono è che se hai tradito non chiedere perdono. Da sud a nord, lasciando il sole per trovare pioggia, per sempre porterò nel cuore il ricordo di Foggia. È quello che mi fa più rabbia, qui non c'è il sole, ma soltanto nebbia, mi sento in gabbia. Tutte le favole cominciano, c'era una volta, tutte le favole ad un certo punto hanno una svolta, aspettando il lieto fine che ti meriti, ma non arriva. È una visione soggettiva, così ho imparato che sognare è gratis, ma tutto ha un prezzo. Sulla pelle pago il mutuo già da un pezzo, specchio specchio delle mie brame. Dimmi chi è che scrive le più belle rime del reame. C'era una volta chi credeva nelle favole, c'era una volta così iniziavano le fiabe, c'era una volta chi sognava ad occhi aperti e vissero tutti felici e contenti. C'era una volta chi credeva nelle favole, c'era una volta così iniziavano le fiabe, c'era una volta ma tanto tempo fa, non questa volta, ho chiuso a chiave la mia porta.